Rassegna eventi. Allora, andiamo velocemente a scoprire che cosa succede questa settimana in città, Bricobaldo. Chissà, chissà. Allora, non partiamo da lunedì, perché lunedì è oggi e sono già passate un sacco di cose, ahimè. Sì, beh, non ve le diciamo nemmeno, si risparmia tempo. Andiamo subito a mercoledì. Mercoledì, lo sappiamo, lo sapete che cosa c'è. Apertura della cerealificina Brugola Rossa al CPA in via di Villa Magna. Come tutti i mercoledì, dalle 20 fino a tarda notte, la cicloofficina apre e è organizzato in collaborazione con Critical Mass. Meraviglioso, meraviglioso. Giovedì 25 invece concerto live, il Braso, organizzato da IAM, iniziativa antagonista metropolitana, alle ore 20:30 e c'è anche un'ottima apericena. Yeah. Sempre giovedì? Sempre giovedì alle ore 18 invece la fabbrica del turismo, la sfida cinese. È un incontro organizzato dallo spazio Inchiostro in via degli Alfani 49 con dove interverranno Giuliano Marrucci con l'introduzione di Ornella De Zorto. Fantastico, sempre giovedì abbiamo la durata Critical Mass, dalle 18:30 parte in Santissima Annunziata. Dalle 18:30 ritrovo in Piazza Santissima. Sì, scusami. In Piazza Santissima Annunziata parte verso 19:30 per finire negli spazi della Polveriera, spazio comune, dove si troveranno Teino e proiezione e chiacchiere varie, in modo per incontrarsi anche dopo aver pedalato. Concludiamo con venerdì 26, l'ultima iniziativa a noi nota della settimana, serata per il Kurdistan, esatto, in lotta, alle ore 21:30, presentazione dell'autobiografia di Sakin Kansiz, Tutta la mia vita è stata una lotta, con l'intervento di esponenti della comunità curda in Italia, e è organizzata chiaramente dal Coordinamento Toscano per il Kurdistan, che ha sede in via Villa Magna, comunque, via Villa Magna, diciamo, CPA, scusate, cioè chiaramente sì, perché mi stavo confondendo. Bene, questo, sapete tutto, sapete dove andare. Questo è tutto, se avete eventi da farci sapere per le prossime settimane, per i prossimi tempi, sempre postawombat@insiberia.net. Esattamente, e niente, Wombat Wombat, la settimana prossima. Wombat. Ciao! Rassegna eventi.